Coffee Break Italian, Season 2, Episode 37. Buongiorno a tutti e benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark. Ciao a tutti e io sono Francesca. Siamo di ritorno, siamo nello studio. Sì. Per registrare un altro episodio di Coffee Break Italian per voi. Sì, nel nuovo studio, la precisione. Esatto, nel nuovo studio. We are in the new studio today and we hope that you enjoy this recording of Coffee Break Italian. Francesca, devo ammettere qualcosa. Oh, mamma mia, mi preoccupi, Mark. Anch'io sono un po' preoccupato oggi perché ho fatto Coffee Break Chinese stamattina. Ah. Ho passato tutta la mattina nello studio registrando Coffee Break Chinese con Crystal. Sì, ho visto che lo studio era occupato questa mattina. Allora, se faccio qualche errore? Sì. There I go, already making mistakes. Se faccio qualche errore... Mm-hmm. È per questa ragione, okay. Pensando in cinese. Devo ammettere che per me l'italiano è molto più facile che il cinese. Anche per me, direi. If you do fancy learning Chinese, please do check out coffeebreakchinese.com, but I'm sure you're here to learn some Italian. We are back with the 7th episode in our radio play in La Mia Estate, and we will, as usual, listen to the main episode first, and then we'll have a chat about what's in there. Allora, Francesca, sei pronta? Sì, prontissima, come sempre. Allora, cominciamo. Allora, siamo pronti per un nuovo episodio della nostra soap opera. Nell'episodio precedente, Francesca, sono successe molte cose, vero? Oh sì, molte cose interessanti. E soprattutto abbiamo visto che Maria e Riccardo sono diventati due piccioncini. Già, i piccioncini. E poi, se ti ricordi, Mark, Riccardo ha finalmente comprato la casa dei suoi sogni. Giusto, a Vipiteno? Sì, bravo, ti ricordi bene. E poi i tre ragazzi, Mia, Anna e Giorgio, hanno deciso di organizzare qualcosa per la notte di San Lorenzo. Ah, questa famosa notte delle stelle cadenti. Bravo, hai studiato, Mark. Sì, sì, loro infatti vogliono dare una mano al destino, come abbiamo sentito. To give a hand to destiny, yeah. I think they're very busy at the campsite now, getting ready for la notte di San Lorenzo. Sì, allora cosa dici? Vediamo cosa succede al campeggio? Perfetto. Siamo ormai alla vigilia della notte di San Lorenzo. Nell'aria c'è atmosfera di festa e nel campeggio tutti si danno da fare per prepararsi a una delle notti più belle dell'estate italiana. Il tempo è perfetto, il cielo è limpido e il campeggio si trova in un'ottima posizione per osservare le stelle. Sono arrivati tantissimi turisti. Così anche Riccardo ha deciso di dare una mano a Maria e ai ragazzi. Beh, ad essere sinceri, soprattutto a Maria. Eh sì, i nostri due piccioncini sono ormai inseparabili e sembrano due adolescenti alla prima cotta. Tutto ciò riempie di speranza il cuore di Anna e Mia. Ragazzi, ascoltatemi bene, perché mancano poche ore alla notte di San Lorenzo e sono arrivate un sacco di persone. Non ci sono più posti disponibili. Ho appena dovuto dire di no a una simpatica famiglia svedese. Mi dispiace, ma è sempre così in questo periodo dell'anno. Giorgio, metti il cartello tutto esaurito sul cancello, per favore. Ok, lo metto subito. Posso fare altro? Vai a comprare altre 10 coperte perché non ne abbiamo abbastanza. Buona idea. E tu, Mia, controlla il bar, per favore. Ci servono bibite di tutti i tipi e anche molta birra. Farà caldissimo domani e tutti avranno sete. Grazie, Anna. Mi piace lavorare al bar. Lo so, cara. E più tardi iniziamo a preparare i panini. Che stanchezza. Devo controllare il lavoro di così tante persone. Non capisco più niente. Dai, Maria, tranquilla. Ti aiuto io. Come posso rendermi utile? Ma tu sei in vacanza, non devi lavorare. Sono contento di aiutarti. Dai, rimbocchiamoci le maniche. Allora, sposta quei tavoli più a destra e poi metti le sedie in fila. Va bene. Poi, per cortesia, porta al bar tutte le casse d'acqua che sono arrivate stamattina. Ma ti prego, non disturbare, ragazzi. E soprattutto Mia. Non preoccuparti. Ho imparato la lezione. Riccardo ha davvero imparato la lezione e ha capito che non deve essere troppo invadente e protettivo nei confronti di Mia. Ha lavorato sodo tutto il giorno sotto il caldo sole di agosto per aiutare Maria a preparare tutto per la notte di San Lorenzo. Adesso i due si godono un delizioso aperitivo mentre ammirano un bel tramonto. Giorgio e Mia, pieni di energia, continuano a lavorare fino a tarda sera. Sembra proprio che loro non sentano la stanchezza. Ormai manca davvero poco alla notte di San Lorenzo. Chissà quali sorprese ci regaleranno le stelle. Okay, a very interesting episode. It's an episode of preparation. Preparation, sì. Preparation for the notte di San Lorenzo, esatto. As we've mentioned already. But there are some interesting items of vocabulary and some interesting constructions in this episode. And I think what we're going to do now is have a little look at these constructions and these items of vocabulary. Okay. Now, this episode begins with an introduction from our wonderful narrator. So let's have a listen to that section again, and then we'll talk about some of the language in there. Okay, va bene. Siamo ormai alla vigilia della notte di San Lorenzo. Nell'aria c'è atmosfera di festa e nel campeggio tutti si danno da fare per prepararsi a una delle notti più belle dell'estate italiana. Il tempo è perfetto, il cielo è limpido e il campeggio si trova in un'ottima posizione per osservare le stelle. Sono arrivati tantissimi turisti, così anche Riccardo ha deciso di dare una mano a Maria e ai ragazzi. Beh, ad essere sinceri, soprattutto a Maria. Eh sì, i nostri due piccioncini sono ormai inseparabili e sembrano due adolescenti alla prima cotta. Tutto ciò riempie di speranza il cuore di Anna e Mia. Okay, so we've got a better idea of what has happened here, what is happening. Let's take a closer look at this text. Allora, ho una domanda subito per te, Mark. Dimmi. Abbiamo visto che è la vigilia della notte di San Lorenzo. E com'è l'atmosfera in questa vigilia speciale? C'è veramente un'atmosfera di festa. Sì, che bello, vero? E anche il tempo sembra bello. The weather seems good, which is very important if you want to sit outside at night looking at the stars, at the shooting stars. The shooting stars, absolutely. La narratrice dice che il tempo è perfetto. Il cielo è limpido. Sì, che bell'aggettivo, sì. Limpido. Sicuramente un buon inizio, tempo perfetto e cielo limpido. E poi anche al campeggio sono arrivati tanti turisti e tutti, compreso Riccardo, stanno lavorando molto. Ma Mark, we now know that Riccardo and Maria are piccioncini, and we love this word. Absolutely. Ma la narratrice is giving us more details about their love story. Well, I heard the adjective inseparabili. Sì, inseparabili. Inseparabili, oh my goodness. That's not very good. Inseparabili. Sì, plurale. Talking sì. In the plural here. And they're also compared to, did you get the comparison? I did, come due adolescenti. Sì, bravissimo, teenagers, adolescenti. Adolescenti alla prima cotta. Una cotta? Sì. Cotta is something surely to do with cooking. Not really. Cotta is a crush. Oh, so to have a crush on someone. Sì, prendersi una cotta per qualcuno. It means to have a crush on someone. That's new to me, I like that. Prendersi una cotta. Per qualcuno. Sì, okay. Sì. So in a way you are cooked. Yes. You're kind of melting for someone. Absolutely. Now, if we wanted to put that into the perfect tense and say, I have developed a crush on, I'll say, Laura, okay? Okay. Mi sono preso sì. una cotta per Laura. Sì, esatto. Okay. Mi sono preso una cotta per Laura. But perhaps it's not something that one admits. Maybe it's something that someone would say about me. Maybe. Okay, let's move on and listen to the next section in which Anna, Giorgio and Mia are getting ready for the big night at the campsite. Sì, esatto. Vediamo un po' allora. Ragazzi, ascoltatemi bene, perché mancano poche ore alla notte di San Lorenzo e sono arrivate un sacco di persone. Non ci sono più posti disponibili. Ho appena dovuto dire di no a una simpatica famiglia svedese. Mi dispiace, ma è sempre così in questo periodo dell'anno. Giorgio, metti il cartello tutto esaurito sul cancello, per favore. Ok, lo metto subito. Posso fare altro? Vai a comprare altre 10 coperte perché non ne abbiamo abbastanza. Buona idea. E tu, Mia, controlla il bar, per favore. Ci servono bibite di tutti i tipi e anche molta birra. Farà caldissimo domani e tutti avranno sete. Grazie, Anna. Mi piace lavorare al bar. Lo so, cara. E più tardi iniziamo a preparare i panini. Okay, we'll just stop there before Maria and Riccardo arrive. It's very busy at the campsite. Sì, sì, molto. C'è molto lavoro. Mark, hai capito perché sono tutti così busy? Busy, sì, sono tutti molto busy. Perché mancano poche ore alla notte di San Lorenzo. Bravissimo. Come ha detto Anna. Sì, sì, sì, sì. And now we know quite well verb mancare because we have seen it many times by now. Exactly. It's the verb that means literally to miss. Sì. But here it means sort of remain. There are remaining very few hours mm-hmm. to the night of San Lorenzo. Perfetto. E al campeggio sono arrivate anche un sacco di persone. Un sacco di persone. I love that. A sack of people. Lots sì. of people. Loads of people. It's a bit of a colloquial expression in Italian. It's better not to use it in written Italian. Yeah. But when you're speaking Italian informally, it's something that we use all the time. So it's nice. I like it. Yes, un sacco I think di. It's perfectly appropriate. Okay, Mark. And do you think they can accept more guests at the campsite? Well, I think Giorgio was just saying that he turned away a group of a Swedish family, I think. Bravissimo. Una famiglia svedese. Sì, sì, esatto. Giorgio ha appena dovuto dire di no a una famiglia svedese. That's interesting, actually. Sorry to interrupt you there, but you said ha dovuto dire di no. Uh-huh. So when you're saying anything, he had to say no to a Swedish family. You have to say di no. Sì, we could have also said ha dovuto dire no. No. Sì. Sì. Ah, sì. This is funny. But yes. But yeah, we get where we're coming from here. Uh-huh. Dire di no or dire di sì. Same thing with verb pensare. Mm-hmm. We can say penso di sì, I think so, o penso di no. Okay, good. Ok, andiamo avanti. Sì, sì, sì. Ho un'altra domanda. Giorgio ha messo un cartello sul cancello, a sign on the gate. Mm-hmm. Ok, e cosa dice questo cartello? Ah, una frase molto importante per sì. tutti i nostri ascoltatori che viaggiano in Italia, perché mm-hmm. questo cartello dice tutto esaurito. Bravissimo, cosa significa in inglese? It's like sold out, it's sì, full, sì. basically. Esatto. We should mention that there is an episode of Walk, Talk and Learn Italian which concentrates really on these kind of sì. Expressions, tutto esaurito and other expressions. Lavoro in corso. Esatto. Sì. So yeah, do look for that Walk, Talk and Learn Italian on our YouTube channel. But let's get back to this episode. Sì, e parliamo di Anna che come sempre è molto seria e sta dando ordini a tutti. Hai capito cosa devono fare Giorgio e Mia? Quali ordini Anna sta dando a Giorgio e Mia? Allora, Giorgio deve comprare altre 10 coperte. Another 10 blankets. Sì, bravissimo. So literally covers, coperte. Sì. E Mia? Mia deve controllare il bar, certo. Penso. Perché servono molte bibite e birra per domani. Esatto, bravissimo. Molte bibite e birra per domani. Ok. Io ho detto bibite, no? Non non ero sicura, per questo ho ripetuto bibite. Bibite, yeah, I'm maybe it's the Chinese that's coming back in. Ah, there you go. Okay, before I make a fool of myself anymore, let's move on and listen to our next section. And this is when Maria and Ricardo arrive too. And we'll listen to that just after our break. Interrompiamo questa trasmissione per una comunicazione importante. If you'd like to make faster progress with your Italian, don't forget that you can use the premium version of this course, which features video versions of the lessons, comprehensive lesson notes, and bonus listening materials. Allora, cosa aspetti? What are you waiting for? If you'd like to take your Italian to the next level, go to coffeebreakitalianplus.com. Okay, we are listening to our seventh episode of La Mia Estate Oggi, and we are just about to listen to the next section in which Maria and Riccardo arrive and help with the organizations for the festa. Sì, esatto. Let's have a listen. Che stanchezza! Devo controllare il lavoro di così tante persone. Non capisco più niente. Dai, Maria, tranquilla. Ti aiuto io. Come posso rendermi utile? Ma tu sei in vacanza, non devi lavorare. Sono contento di aiutarti. Dai, rimbocchiamoci le maniche. Allora, sposta quei tavoli più a destra e poi metti le sedie in fila. Va bene. Poi, per cortesia, porta al bar tutte le casse d'acqua che sono arrivate stamattina. Ma ti prego, non disturbare i ragazzi e soprattutto Mia. Non preoccuparti, ho imparato la lezione. Quanto lavoro in questo campeggio, hai visto, Mark? Lots of work. And even Ricardo's helping, although he is in vacanza. Sì. I do wonder, however, if he has really learned his lesson. We'll find out, I'm sure. Aspettiamo fino alla fine. Ok. Allora, Mark, hai visto, Maria ha molto da fare in questo giorno molto importante. Esatto. Non è facile lavorare in un campeggio. Francesca, dimmi, hai mai lavorato in un campeggio tu? No, in un campeggio mai. Però una volta, quando ero molto giovane, ho lavorato in un ristorante in Inghilterra. Wow. Era veramente faticoso. Lavavo i piatti. Allora dicevi anche tu, che stanchezza. Sì, probabilmente ogni sera alla fine del mio turno. Che stanchezza, literally. What tiredness. This is exhausting, it's tiring. Sì, ma per fortuna che c'è Riccardo. He's been really nice, vero? Lui dice, ti aiuto io. Mm-hmm. But why doesn't he say, io ti aiuto, or even just ti aiuto? Well spotted, Mark. This basically is an emphatic structure. So by using the pronoun io, Riccardo wants to underline that he himself and no one else is going to help Maria. So by moving the subject after the verb, we make it more emphatic. Okay, makes sense. Can you give us another example of this? Yeah, for example, when the phone rings and someone says, chi risponde? Who is okay. answering? Who is taking the call? I can say, rispondo io. Ah, okay. As opposed to, io rispondo. Yep. Rispondo io. Mm-hmm. Or if I say, chi mangia l'ultima fetta di torta? Mangio io. Bravissimo. Could I say, la mangio io? La mangio io. Bravissimo. I'll eat it. Uh-huh. It's interesting because in English, we tend to use a future here. I'll eat it. I'll get it. I'll answer. I'm thinking, actually, I remember clearly when we would go for lunch or something like that with my gran and my great aunts, and one of them would always say, pago io. Ah, sì, so, bravissimo. Yeah. And she would be wanting, I'm paying, I'm on the bill here. È un bel esempio questo. Excellent. Okay, so it's really easy. We just turn it around. Sì, sì. So the verb followed by the subject pronoun io. Esatto, sì, facilissimo. Ok, moving on, Mark. Mm-hmm. Riccardo asks Maria how he can be of any help. He uses an interesting expression. He says, come posso rendermi utile? Sì. How can I make myself useful? Esatto, sì. And Maria initially says that he shouldn't be working. Yeah, she says non devi lavorare mm-hmm. because you're on holiday. But Ricardo insists, and he uses a very nice expression. Sì, what a gentleman is insisting. Lui dice, rimbocchiamoci le maniche. Right, tell us about this. Let's have a little explanation of okay, this. Okay, le maniche sono sleeves. Mm-hmm. And rimboccarsi le maniche means to roll up, the sleeves. So let's roll up our sleeves to ourselves because it's a reflexive. Esatto. Okay. And what has Ricardo been asked to do? Well, Ricardo has been asked to spostare i tavoli. To move the tables. Sì. Mettere le sedie in fila. To line up the chairs. Sì, Put them in a line, yes, sì. I guess. Uh-huh. E portare al bar le casse d'acqua. So take the water crates to the bar. Sì. So the crates of bottles of water, presumably. Uh-huh, yeah. Esatto. E Maria has an additional request for Ricardo. Yes. A special one. Non disturbare i ragazzi e soprattutto Mia. Esatto, esatto. But there's nothing to worry about. No, as we said before, cosa dice Riccardo? Ho imparato la lezione. Okay. I've learned my lesson, I think we would say in English. Could you say, ho imparato la mia lezione? Or does it sound better just to say? No, just say, ho imparato la lezione. Sì, sì. Okay, let's listen to our final section now to see what the narrator says in this final part of this episode. Riccardo ha davvero imparato la lezione e ha capito che non deve essere troppo invadente e protettivo nei confronti di Mia. Ha lavorato sodo tutto il giorno sotto il caldo sole di agosto per aiutare Maria a preparare tutto per la notte di San Lorenzo. Adesso i due si godono un delizioso aperitivo mentre ammirano un bel tramonto. Giorgio e Mia, pieni di energia, continuano a lavorare fino a tarda sera. Sembra proprio che loro non sentano la stanchezza. Ormai manca davvero poco alla notte di San Lorenzo. Chissà quali sorprese ci regaleranno le stelle. Okay, so after a long day of work, everything seems ready. Sì, finalmente. Ma la cosa più interessante, Mark, secondo me, è che finalmente Riccardo ha capito che non deve essere troppo invadente e iperprotettivo. Finally. But he's also worked hard. Bravo, ha lavorato sodo. This word sodo, I may be completely on the wrong plane here, but it reminds me of something to do with eggs. Has it got something to do with eggs? Sì, Mark. You never fail to surprise me with your knowledge of Italian. Yeah, because un uovo sodo is, how do you say it in English? Hard-boiled egg. Hard-boiled un uovo egg, sodo. Of course, yeah. Sì, and lavorare sodo means to work hard. As a hard-boiled egg. Yeah. But that's not what they're eating. They're nothing, this has nothing to do with real hard-boiled eggs here. No, no, perché Maria e Riccardo si godono un delizioso aperitivo. So they are enjoying a nice aperitif. Ma quando? In quale momento preciso del giorno? At the exact moment of the tramonto, the sunset. Sì. That's one of my favorite Italian words. I love the word tramonto. Ah, è bella come parola, sì. What about Giorgio and Mia? Are they taking advantage of the tramonto? No, loro sono giovani, pieni di energia e quindi continuano a lavorare sodo fino a tarda sera. Perfetto. Now, in this next section, there's also a nice one of these subjunctive verbs that we've come across a couple of times. Can you explain this part here? Sì, abbiamo la frase sembra che non sentano la stanchezza. Okay, so it seems that they are not feeling the tiredness. Sì, and as we mentioned in the previous episodes, sembrare, to seem, is one of the verbs which triggers the subjunctive because yeah. It's only, you know, something that we think, but maybe they're feeling the tiredness, so it's not 100% true. Yep. It's just an opinion, an impression. And that's why we're using the subjunctive of sentire, mm-hmm. sentano. Sentano. So sentire is the infinitive, and it would be normally sentono, sì. the normal indicative form, the one we call mm-hmm. the normal form, if you like. But that subjunctive form just has a different ending, sentano. Esatto, sì. So it's... you don't really need to worry about this, as we've said many times. It's something that you can understand when you're hearing something like that. Sembra che non sentano la stanchezza. You would hear that and you would think, sentano, that's from sentire. Sì. You don't feel the tiredness. So from the context, that helps you. It's about, I suppose, recreating that when you're actually speaking yourself. And sì. That's a little more tricky, but don't worry. Piano piano. Piano piano, esatto. Sì. Ok. Allora, sembra che tutto sia pronto per la notte di San Lorenzo. E in conclusione, come dice la narratrice, chissà cosa ci regaleranno le stelle. Who knows what the stars will have in store for us? Lo scopriremo presto. Sì, non vedo l'ora. You'll find out soon, but that's it for this episode. That's it for this episode of Coffee Break Italian. Now, of course, you can get access to our lesson notes, the full transcript of all of the La Mia Estate episode, plus the explanations and vocabulary, and our video versions and our bonus audio materials. And that is all at coffeebreakitalianplus.com. Now, those bonus audio materials actually go through the entire text, line by line, in which we explain everything that's going on. So if you're looking to take your Italian to the next level, then you can do so with coffeebreakitalianplus.com. And of course, as usual, we want to remind you that we regularly post content on social media to help you improve and practice your Italian. You can find us on Facebook, where 3 times a week we post cultural and language learning tips, giving you the chance to respond and try out what you are learning in each episode. Search for Coffee Break Italian and make sure you like our page. And there is also Twitter, where we post regular links to lessons. Follow at Learn Italian. And you can also join us on Instagram, where we've been sharing stories for language learners and some behind-the-scenes photos of what goes on here at Coffee Break Languages. Make sure you follow at Coffee Break Languages on Instagram to keep up with all our latest news and language learning tips. We will be back again soon with another episode of Coffee Break Italian. And this is, of course, the episode of La Notte di San Lorenzo in our episode 38. Il prossimo, il sì. Il prossimo. But until then, grazie molte e arrivederci. Sì, ci vediamo la notte di San Lorenzo. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017 Radiolingua Limited. Recording copyright 2017 Radiolingua Limited. All rights reserved.